Give me lady a new spring. Give me lady a new spring. Fammi provare una primavera e ti darò molto più di quello che pensi. Fammi sentire uomo e ti darò la mia fedeltà. Fammi sentire vivo e ti darò in dono tutta la mia anima. Sono prima di tutto un lady gentleman a cui hanno tolto tutto, tutto il respiro. Fammi provare a riavere la mia vita e ti darò tutto il mio cuore. Primavera arriverà e sarà la mia vita, primavera poi sarà con te. Fammi vivere una nuova vita, fammi provare cosa vuol dire il nuovo amore, il nuovo eros in fiore. Venisci la mia solitudine, io lo farò con la tua. Saremo un po' come tempo di anima su anima in un'altura. Saremo un po' come tempo di anima su anima in un'altura. Saremo come tempo di anima su anima in un'altura. Fammi provare una primavera e ti darò molto di più di quello che pensi. Fammi sentire uomo e ti darò la mia fedeltà. Fammi sentire vivo e ti darò in dono tutta la mia anima. Sono prima di tutto un lady gentleman a cui hanno tolto tutto, tutto il respiro. Fammi provare a riavere la mia vita e ti darò tutto il mio cuore. Primavera arriverà e sarà la mia vita, primavera poi sarà con te. Fammi vivere nuova vita, fammi provare cosa vuol dire nuovo amore, nuovo eros in fiore. Lenisci la mia solitudine e io lo farò con la tua. Saremo con un po' di tempo di anima su anima in un'altura. Saremo tempo di anima su anima in un'altura. Give me a lady a new spring for me, a new spring for me every time.